L'ultimo atto di Romano Prodi alla presidenza della Commissione europea sarà dunque un sì di massima all'accesso della Turchia in Europa. Un sì di massima perché ostentativamente viene a cadere il meccanismo che faceva coincidere l'inizio delle contrattazioni con la certezza dell'ingresso. Un sì condizionale quindi, perché se da un lato un'Unione Europea forte non ha nulla da temere dall'ingresso della Turchia, è anche vero che la Turchia, malgrado ogni impressionante progresso, non corrisponde ancora, nei fatti, ai criteri di Copenaghen. La Commissione di Günther Verheugen ha dunque proposto con un documento di 9 pagine di inquadrare severamente l'intero processo di ammissione. Il testo servirà come base della discussione per i capi di Stato che dovranno prendere una decisione entro il 17 dicembre. L'apertura è condizionata dall'applicazione di una serie di leggi votate e soprattutto il giudizio si esprimerà sull'irreversibilità della trasformazione democratica avviata dal premier Erdogan. La Turchia, quindi, non è per nulla sicura di entrare, anche perché si profila all'orizzonte la minaccia di un referendum in Francia, che di per sé potrebbe essere un severo ostacolo, ma che diventerebbe insormontabile se i referendum sull'ingresso si moltiplicassero in paesi molto più critici, come la Germania, l'Austria, la Grecia, Cipro, la Spagna o la stessa Italia. La Commissione europea ha comunque previsto un'uscita di emergenza. Se la Turchia non confermerà il processo di democratizzazione, la Commissione raccomanda l'interruzione delle contrattazioni per voto di maggioranza. Si precisa anche che l'adesione non potrà avvenire prima del 2015, mentre per quanto riguarda il timore di emigrazione in massa di lavori turchi, la Commissione ha previsto che delle clausole di salvaguardia permanente potrebbero essere prese in considerazione. Si stima che il costo dell'adesione turca sia di circa 25 miliardi di euro nel 2020, ossia lo 0,17% del PIL, e per evitare che tutte le sovvenzioni europee siano assorbite dall'agricoltura turca verranno presi dei provvedimenti restrittivi. Per quanto riguarda l'occupazione turca di Cipro, la Commissione non prevede che la soluzione del conflitto sia una condizio sine qua non, ma menziona quantomeno l'argomento ricordando che i negoziati verranno condotti nell'ambito di una conferenza intergovernamentale che comprende tutti gli Stati membri, quindi anche Cipro. Da Zurigo, Tito Gandini per Amisnet.